Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mia ex moglie, l'ultimo divorzio, è una donna russa che è andata a vivere con chi era mio amico, quindi me la trovo ancora adesso davanti. E ho cercato una donna italiana, le donne italiane non sanno più darci quello che purtroppo queste extracomunitarie, chiamiamolo così, possono dare a noi uomini. Sono le donne di una volta, le donne italiane sono evolute, emancipate, cercano o solamente sesso, oppure sono già a posto così tranquille nella loro precedenti magari relazioni, per cui si sentono già appagate e quindi hanno già dato. Il resto è tutto da prendere. Lo so, questa mattina qualcuno mi scriverà e dirà: sei razzista, stai istigando alla discriminazione. No, sto semplicemente analizzando dei dati. A me divertiva molto, piaceva molto l'idea della coppia mista, l'idea del mix fra le culture diverse, vedere questi bambini policromi che prendono il meglio da ognuno dei genitori, però i dati sono i dati. C'è stato un convegno giorni fa a Milano, Le Famiglie Senza Frontiere, che è organizzato dal Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia di Milano. Hanno fatto una fotografia del dissenso familiare che sta assumendo toni sempre più disperati. Io sono il primo che ha detto più volte a questi microfoni che la famiglia è un modello da riscrivere o da sovrascrivere a quello attuale. Non si può pensare di tenerla assieme per come è articolata oggi la società, il mondo, l'economia, la maniera di socializzare. Ma quello che hanno notato è che quelle a star peggio sono proprio le coppie miste, le coppie dove ci sono differenze di cultura, di lingua, ahimè anche di religione e di costume. Diciamo che le coppie miste in Italia sono circa nel 2007, vedo il dato, un quarto di milione di matrimoni, un decimo quello di coppie miste. I primi 15 paesi sono Romania, Ucraina, Brasile, Polonia, Russia, Moldova, Albania, Marocco. Nel 2007 sono stati 50.000 divorzi, più di 80.000 separazioni, con un incremento del 2%. Di questi la parte rilevante sono proprio di coppie miste, il 10%. Quindi dobbiamo capire, al di là dei numeri, cosa sta succedendo. Avete sentito, abbiamo mandato qualche testimonianza di persone che ci raccontavano vicende che fanno parte ormai di una saggistica popolare molto diffusa nelle nostre contrade. L'uomo ormai al tramonto della sua vitalità incontra una bella donna che viene magari da un paese dell'est, se ne innamora, questa gli fa fare un figlio e poi naturalmente cominciano per lui i problemi. Questo è un fatto, è una parte del luogo comune. Un altro luogo comune me lo esprime Laura sul profilo Facebook Melog Radio 24, cioè, stupendo, ne conosco uno, un vetero comunista narcisista, sfigatissimo, con la moglie modestissima, orientale, nulla facente, manco parlante e nemmeno interagente. Ah, quanto si sente fico! Queste sono le tecniche di compensazione e alimentazione della propria autostima. Questo è un pochino il quadro della situazione. Avete delle esperienze per corroborare quelle che saranno l'analisi dei dati che faremo questa mattina con gli ospiti? Conoscete persone che hanno fatto matrimoni misti, vivono felicemente da tanti anni, quindi possono sfatare questo che è il luogo comune, che la coppia mista non funzioni? Diciamo che la coppia, l'istituto matrimoniale, in realtà comincia a fare acqua da tutte le parti, ma in particolare nella coppia mista il fenomeno è più visibile. 800240024. Nel 2007 in Italia ci sono stati 250.000 matrimoni. Un decimo di questi matrimoni è stato celebrato tra coppie miste. Secondo la classifica dei primi 15 paesi di cittadinanza, la Romania al primo posto, poi Ucraina, Brasile, Polonia, Russia, Moldavia, Albania, Marocco e a seguire tutti gli altri. Nel 2007 ci sono stati oltre 50.000 divorzi e più di 80.000 separazioni, con un incremento tra l'1 e poco più del 2%. Nel 10% dei casi si tratta di coppie miste. Tra le coppie miste, separazioni e divorzi sono aumentati in 7 anni di oltre il 70%. In 7 casi su 10 è un italiano a separarsi da una donna straniera. 800 24 0024. Stamattina vorrei serenamente, leggiadramente, per quanto è possibile, affrontare questo problema. È chiaro che per civilizzazione, per cultura, per progresso nella nostra apertura mentale, siamo propensi a dire che non è un elemento discriminante l'appartenere a un altro paese, a un'altra cultura, a diversi modi di concepire l'esistenza, anche a un'altra religione, per quanto ancora può essere un peso, perlomeno per noi occidentali laicizzati. Ma il risultato pare che comunque sia da tenere in considerazione. Professoressa Gaia Peruzzi, buongiorno. Buongiorno a lei. La professoressa Peruzzi è docente di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, ha scritto un volume, Amori possibili, le coppie miste nella provincia italiana, editore Franco Angeli. Perché dice la provincia italiana? Perché è un fenomeno più diffuso nelle province rispetto alle metropoli? No, no, anzi, perché mi interessava tenere lo sguardo largo anche su, voglio dire, in Italia ci sono alcuni grandi agglomerati, faccia conto Roma e Milano, ma poi, voglio dire, la maggior parte della gente vive poi in contesti molto più provinciali, quindi mi interessava, come dire, tenere l'occhio allargato su quella che era la situazione italiana in generale, per cui siamo un territorio fatto anche di piccoli contesti, di contesti provinciali, e non ci sono solo le grandi città dove magari il mescolamento arriva prima ed è anche più, come dire, e viene accettato prima, ecco. Era e anche se più mascherarsi, diluisce di più, diciamo. Nei piccoli centri, io ricordo anni fa me ne occupai, nel casertano ci furono sindaci che fecero ordinanze per tenere lontane le russe dai bravi maschi di alcune frazioni, che sembra che scappassero tutti e lasciassero le famiglie, rovinassero le famiglie. Ci furono inchieste interessantissime, analisi giornalistiche. Dal suo libro però noto che riusciamo a capire, prima ancora di entrare nell'analisi dei dati, quando si parla di sbilanciamento e asimmetria, quando due persone si mettono insieme, decidono di fare coppia e di proseguire il loro rapporto ufficializzandolo, cercano di compensare le loro asimmetrie, ma nel caso di una coppia mista è ancora più difficoltoso questo lavoro di compensazione? C'è una volontà reale di compensazione? Ognuno vuol rimanere comunque ancorato a quelle sono le sue tradizioni, la sua visione della vita? Professoressa, c'è? C'è un blackout improvviso della professoressa. Vabbè, mentre la professoressa la riprendiamo, sentiamo Francesco subito. Sì, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno. Niente, io ho tanto tempo che frequento una ragazza rumena, la recente ragazza era polacca. Io ho 32 anni. Cioè una rumena e una polacca? No, no, nel senso, prima era con una ragazza polacca, poi ci siamo lasciati, adesso frequento una rumena. Negli ultimi 7-8 anni ho frequentato solo ragazze straniere. E non te ne sei sposata nessuna, però? No, ho 32 anni e spero ancora a sposarmi. Vabbè, oddio. Però io mi trovo da Dio. Alla tua età i nostri genitori avevano già figli, comunque. Io mi trovo da Dio, nel senso che io sono persone stupende. E chi sta meglio di te? Grazie al piffero, scusa, è certo che stai bene. No, ti dico che sinceramente provo un gran interesse per frequentare persone comunque di altre culture, perché ti dico, hanno un modo di ragionare completamente diverso. Sì, ma qui parliamo di chi poi fa il grande passo e se le sposa. Cosa? Sì, ma io sicuramente sposerò una ragazza straniera. Ma quando? Io sono convinto, però. Ah, ti dico, è questione di poco, però, perché siamo insieme già da 3-4 anni. Però detto questo, cioè, ti dico, non riesco più a entrare in sintonia, ma vedo anche i miei amici con le ragazze italiane, non c'è più sintonia, non c'è più. Ci sono troppe pretese, non si riesce ad andare d'accordo. Cerchiamo di capire perché tu hai questa predilezione particolare per le fate che vengono dall'est, che ti porterà poi a sposarle. Poi guardandoti intorno, nel luogo in cui vivi, vedi episodi ed esempi di coppie consolidate, nonostante la differenza di cultura e di provenienza? Vedo coppie consolidate, straniere, che stanno benissimo insieme, vedo la maggior parte, dico, forse andando controcorrente dai tuoi dati, di coppie italiane che comunque si scozzano continuamente su tematiche che comunque sono basilari per la vita di coppia. Una ragazza straniera, per quanto riguarda il mio credo, diciamo, quello che è i miei amici, si riesce a entrare d'accordo su tutto, cioè sono più semplici, più alla mano, un po' come dicevi. Cioè, te la danno sempre vinta? Beh, lo so, questo è proprio il punto. No, attenzione, non sempre vinta. Però se comunque si discute di una cosa, si può capire che non ci sono, i soldi per fare, per uscire tutte le sere, si può capire che non ci sono soldi per andare. Cioè, non so, si riesce, sono persone più semplici, più alla mano. Beh, sono abituate a una vita più austera, questo è vero. Esatto, esatto. Per quelli, e anche per quanto riguarda, casomai, il vivere comune, ti dico, si va anche per i lavori manuali proprio. Abito anche in campagna, ma adesso non lavoro in campagna. Beh, cioè, certo, le puoi mettere a fare lavori di fatica, non si lamentano. Sì, quello, ma, certo. Ma così proprio, cioè, ma la mia ragazza mi ha aiutato a strutturare a casa come muratore. Adesso mi chiedo qual è quella ragazza italiana che viene lì e ti fa da muratore mentre faceva già un altro lavoro. Cioè, capito, sono cose semplici, ma per un uomo sono importanti. Cioè, certo, è che tutti vorrebbero una moglie che spinge la carriola con i mattoni, figurati. Ciao Francesco, Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io volevo aspettare una lancia a favore dei matrimoni misti, ovviamente. Sono felicemente sposato con una donna algerina e niente. Credo da quanti anni sei sposato? Dal 2006, quindi sono già 6 anni. Quindi stai tranquillo, a posto, non avete compensato tutte le asimmetrie? Mi sto grattando in questo momento. No, è una domanda, mica ho detto che, certo, deve andare, certo, male per forza. Scherzavo. No, diciamo che sì, bisogna sicuramente avere in mente cosa fare prima, come in tutte le cose, credo, no? Senza leggerezza, magari a volte sento anch'io coppie o conosco coppie di amici che si sono sposati. Ma quanto influisce il fattore religioso nel vostro matrimonio? Beh, influisce come anche altri fattori. Bisogna ovviamente fare delle scelte, bisogna avere chiarezza. Ma tu ti sei dovuto convertire all'Islam per sposarla? No, non è stata una scelta dovuta al fatto di sposarmi, è stata una scelta che ho fatto per dare una conseguenza. Se no non te la sposavi, famiglia. Però, se tu dicevi voglio rimanere, adesso io figurati se difendo il diritto, per me la religione è un'importante visione della vita, ma non è necessaria o obbligatoria, però tu hai dovuto fare un passo indietro rispetto... Aspetta, io potevo anche glissare, la domanda me l'aspettavo dirti... No, ma sai, privato. Non è... No. Aspetta, volevo non ho nessuna capire... bandiera da difendere, premetto. Io però volevo fare, cioè, non volevo andare subito sulla. Ma se non mangiavi quella minestra, la saltavi la finestra, no? La saltavo la finestra, la saltavo alla grande. E ma come faceva a sposarti se tu rimanevi cristiano? No, aspetta, non andare troppo avanti. Io volevo dirti che la scelta che ho fatto io è stata per dare consequenzialità alla famiglia, quindi le figlie, avendo io un ateismo cristiano, cattolico, quindi di base. Dovevo comunque scegliere qualcosa, se volevo dare un'educazione religiosa ai miei figli oppure no. Sì, per te era indifferente, allora per te è indifferente, è una questione di convenzione sociale. Tu dicevi... Abbiamo deciso di voler dare alle nostre figlie una religione, abbiamo scelto di dare quella musulmana che era la religione di mia moglie. Non è stata una scelta, diciamo, dovuta, ci sposiamo o no, allora se ti converti ci sposiamo, volevo dire questo. Ma se tu non ti convertivi ti avrebbe sposato? Certo. Vabbè, è importante. Se avete una visione laica della vita, avete preso una decisione, siccome lei è quella che ha una maggiore apertura verso una visione trascendentale dell'esistenza, ha detto, beh, facciamone crescere con la mia religione, visto che tu sei ateo e non te ne importa nulla, scegliamo la mia. Mi sembra una scelta razionale. Mariella, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho un'ottima esperienza sul discorso di coppia mista. Io sono sposata di quasi 28 anni. E ho un figlio bellissimo di 18 anni. Permetto che mio marito è nigeriano, è venuto qui per studiare medicina in Italia, ha trovato me, si è fermato per me. E io posso dire tutto positivo riguardo la coppia mista, al di là della religione, che lui è cristiano come me, però non siamo praticanti, non siamo religiosi, cioè di quelli, sa, come i bigotti, la gran parte. No, ma io spero che la religione non diventi mai un elemento discriminante, ecco, per le persone che si vogliono bene. Io trovo che la religione è una cosa a sé, ognuno se la fa per sé e a posto, è l'amore che conta. Io ho incontrato mio marito e sono stata felicissima e lo sono tuttora. Beh, 30 anni sono tanti, lei appartiene a una generazione di coppia mista prima ancora dei grandi flussi immigratori in Italia, quindi... Allora, parlo dell'inizio, cioè loro venivano solo per studiare in Italia, chi era africano, chi era di altre nazioni. E diciamo che la forma di razzismo l'ha vissuta un po' in parte mio figlio, con la immigrazione di massa nel 90, perché lui è nel 93. Cioè, ho trovato la stupidità totale della gente su questa cosa. Ma la gente è stupida anche, guardi, con i ragazzi, purtroppo, anche se non vestono alla moda, anche se si figuri. Se hanno un colore di pelle diverso da quello... Sì, esatto. Solo per il colore della pelle io ho trovato problemi, soprattutto nella oggi scuola. Penso sia superato questo, quando gli idoli del calcio sono tutti neri, quindi nessuno pensa... Devono pensare che ci siamo anche noi. Io ho fatto questa scelta nell'84 e... Giustamente ho detto, il mondo è bello che si mischia, se c'è l'amore ben venga, non vedo nessun altro tipo di barriera al di là delle culture di questa, che sono arricchimento. Sì, però Mariella, se mi permette, lei appartiene a un'altra generazione di coppia mista. Il grande fenomeno è esploso con i flussi migratori e con anche la necessità, innanzitutto con la caduta del muro e con l'est che si è aperto, e poi con altri tipi di realtà, che c'è anche l'idea che comunque un matrimonio misto è la conquista di uno status, di una cittadinanza, quindi cambia. Va bene, grazie Mariella, è chiaro. Niente, tante buone cose a lei, grazie. Abbiamo ripreso la professoressa Peruzzi, buongiorno, rieccola, buongiorno. C'è ancora? Ecco, non so se aveva sentito la domanda, come vede siamo andati avanti, abbiamo sentito qualche testimonianza, ce ne sono tantissime, io lo sospettavo, siccome molte volte la radio, tantissime volte chiamano stranieri che ci ascoltano perfettamente integrati, abbiamo un pubblico che normalmente ha elaborato il concetto della coppia mista, però tornavamo sulle asimmetrie incolmabili più frequenti che rendono poi difficile e problematico la durata di queste unioni. Ma io sicuramente, io sono abituata a considerare le coppie miste come delle coppie dove ci sono dei fattori di diversità in più, coppie delicate, cioè ci sono delle differenze di cultura che rendono da una parte affascinante, dall'altra più complicato. Quindi io, come dire, ridimensionerei il fatto dei divorzi, che pure ci sono e sono sempre più alti nei matrimoni misti, all'interno però di un quadro più generale, dove da anni in Italia sappiamo che il numero dei matrimoni va calando, ma questo in generale, e quello dei divorzi va salendo. Se consideriamo le coppie miste come delle coppie più delicate, probabilmente più fragili, dall'altro canto anche più affascinanti, se no il numero non avrebbe continuato a crescere in questi anni. Quindi il numero cresce, comunque cresce. Il numero è cresciuto fino al 2008. Dal 2008 al 2010 c'è stato uno stop, cioè nel senso, non è che non c'è stato uno stop nella tendenza, i matrimoni misti si continuano a celebrare, ma diciamo che il numero rispetto agli anni precedenti sembra è leggermente diminuito. Ma può essere ci siano delle convivenze invece che dei matrimoni? Ah, lei consideri che tutti i numeri che noi abbiamo riguardano i matrimoni e poi ovviamente ci sono certo. Convivenze che non sono precisate. Quindi come ci sono fra i non misti ci saranno anche tra i misti. Certo, lei consideri che quel 10% su cui insomma si orientava lei, che adesso è calato al 9-8%, ma comunque è il numero dei matrimoni formalizzati, e tenga anche in considerazione che a volte questi sono matrimoni, come dire, sono seconde nozze, quindi io anzi sappiamo per certo che non riusciamo a quantificarle, ma ci sono poi le coppie conviventi. Quindi il fenomeno è sicuramente più largo di quello che le statistiche ci dicono, questo è quasi scontato. Se lei potesse, adesso al di là della freddezza e la scientificità dei dati, dare una sua impressione, quanto è alta la percentuale delle coppie miste determinate da motivi di profitto, di interesse, quindi la cittadinanza o l'acquisizione di beni che altrimenti non sarebbe possibile avere, avere uno status, avere una casa e queste cose qua? Senta, non è bello autocitarsi, ma quando scelsi il titolo del libro Amori possibili, io voglio insistere sul termine amore, insomma, sulla componente, diciamo così, sentimentale. Perché lei è una romantica, quindi, fondamentalmente. Ma diceva lei che ragiono... No, non è un limite, non è un limite. No, glielo dico, ma fu una scelta consapevole, dettata da un percorso, insomma, di esplorazione, perché mi esplose in mano questo fatto nei racconti, queste coppie immigrati, questi partner, facevano riferimento spesso alla componente, come dire, utilitaristica. Abbiamo deciso di sposarci rapidamente perché avevamo bisogno delle carte per il partner straniero per rimanere qua. Oppure era più difficile, come dire, che il partner straniero riuscisse a mantenersi una casa, e quindi ci siamo sistemati. Io ho trovato che la componente, come dire, utilitaristica è spesso espressa in maniera molto esplicita da queste coppie. Ma questo non ci... Che questo non è un limite, io trovo sia un bene. Io sarei per i patti prematrimoniali, se fosse possibile. Uno si dice prima tutto, guarda, io ti sposo perché tu hai una casa e intanto mi rassicuro al fatto che tu abbia una casa, però ti amo pure. Quindi... Io glielo dico semplicemente, loro hanno trovato, io ho trovato una notevole franchezza in qualcosa che a noi disturba, voglio dire... Io non lo so, ma nelle nostre generazioni, ormai 30-40 anni, siamo abituati a dire che ci mettiamo con chi ci piace, no? Questa è ormai la cosa che ci raccontiamo, il motivo. È difficile dire, come dire, esplicitare la parte utilitaristica. In queste coppie io l'ho trovata esplicitata molto spesso, ma questo non esclude che ci sia una componente sentimentale, ci siano coppie che invece decidono di stare insieme perché l'altro lo affascina, perché gli piace. Quindi come il mondo dei... Beh, l'esotico necessariamente ha un fascino, è qualcosa di totalmente diverso. Ma, è un'esperienza diversa andare con una persona quando poi anche la componente è anche fisica, è anche di cultura, è anche di atteggiamento. Di fascino, certo. Ma è come lo si trova mescolato. Non facciamo finta che non conti anche l'aspetto esteriore. È chiaro, la signora che ha sposato un nigeriano e vive felice sarà rimasta affascinata anche dall'aspetto fisico esteriore di questa persona. Questo lo raccontano spessissimi partner, soprattutto le donne dei... Guardi, io ho trovato più facilità, forse perché le donne lo raccontano più facilmente. Nelle donne italiane, riguardo ai partner stranieri, tutte mi hanno raccontato del fascino dell'esotico, dell'Africa, dell'Oriente, me lo hanno raccontato tutte. Ma e questo non esclude che sia, come dire, una componente da mettere in gioco nella vita. Gli uomini fingono, dicono no, ma mi piace perché è molto docile, mi sta a ascoltare, quando poi in realtà magari... Di docile, queste donne spesso, anzi vengono, soprattutto donne che hanno affrontato un percorso migratorio lasciando paesi lontani, spesso in altri continenti. Guardi che di docilità io ho trovato sì qualche racconto, magari capacità di adattamento. Beh, una donna dell'est che viene in Italia ha un pelo sullo stomaco, che è reduce molto spesso ad un altro matrimonio disastroso con un marito quindi, violento. Di adattamento più che docilità, guardi, io lo trasformerei in... si adattano, ma questo riguarda tutti gli immigrati. C'è una persona che, voglio dire, lascia i propri cari, lascia la propria casa per andare a tentare la fortuna da un'altra parte, è chiaro che è più disponibile di noi ad adattarsi. Interessante la capacità di adattamento, quindi non vi lamentate se poi ne vedete tanti in giro fare e occuparsi di questioni, di professioni, di lavori che noi non facciamo più. Si adattano e quindi guadagnano spazio. E questa è la legge basilare dell'evoluzione della specie. Festalon, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno. Siccome sono... Da molto in attesa. Trafficata, adesso mi sposto. Sì, sta guidando Festalon. No, sono a piedi. Si addossi a un muro e salvi la sua vita. Sì, la mia esperienza è che mi sono sposata nell'86, giovanissima, perché avevo 24 anni, e mio marito 26, forse in incoscienza. Non saprei dire come è partita la storia. Ma lei si chiama Festalon, da dove viene? Io vengo dalla Somalia. Ah, è somala, ecco, non lo sapevo. Sì. Lei ha sposato un italiano? Un italiano che è di Parma. E si trova bene? Molto bene. Sono passati dall'86, tre figli, e ci siamo trovati, forse le nostre coscienze, partenza, e poi siamo andati avanti molto bene. Non c'è mai stato un problema... particolare fra voi, che non siano i problemi banalmente di tutte le coppie? Ecco, infatti anche non è stato neanche un fatto economico, perché tutti e due partivamo, io da studentessa. Eravate già ricchi di famiglia, questo va bene. No, non eravamo ricchi, sono partita proprio per studiare in Italia. Allora tutti e due poveri. Poverissimi. E quindi c'era solo l'amore fra voi? Sì, non c'era altro, proprio non si poteva fare altro, anzi delle difficoltà iniziali che a loro... Come studentessa non potevo neanche mantenermi a lavorare, perché io come studente dovevo stare solo studente. Il fattore religioso, culturale, mai rappresentato un problema tra voi? No, perché poi siamo di religioni diverse, perché io sono musulmana, perché quasi 80% dei somali sono musulmani, però forse la mia famiglia era molto aperta, questo non mi ha impedito di sposare un cattolico. E quindi è tutto tranquillo, un idillio. No, diciamo, le coppie, quelle che possono avere i problemi di tutte le coppie, però questo non ci ha impedito e non ci ha fatto sentire diversi. Comunque lei mi conferma, signora, che esattamente lei appartiene alla generazione, come la signora ha chiamato prima dei grandi flussi migratori in Italia. Diciamo che mi sembra, almeno questa è la mia impressione ascoltando telefonate, che ci fossero meno difficoltà, fosse meno diffusa, meno compulsiva la ricerca della coppia matrimoniale di religioni diverse, di etnie diverse. E quindi parliamo di coppie consolidate, coppie anche che nel vero senso della ricchezza dello scambio interculturale hanno costruito una loro storia d'amore molto più articolata di quelle banalmente vivibili fra persone dello stesso paese. Rosario. Sì, buongiorno. Anche lei è felice? No, assolutamente. Ah, no. A lei è andata male. A me è andata male. Il melone è uscito bianco, come si dice. Bravo, il melone è uscito bianco. Io ho già sposato con un'italiana. Lei non è italiano, Rosario? Io sono italiano. Allora, dov'è la coppia mista? La seconda moglie. Ah, la seconda moglie di dov'era invece? Polonia. Quanti anni ci ha vissuto insieme? Io 13 anni, diciamo dopo 2 anni abbiamo avuto un bambino e da lì il melone è cominciato a diventare bianco. Beh, però ha resistito altri 9 anni. Sì, sono andati altri 9 anni perché poi abbiamo avuto un altro figlio, però Il problema è che il melone bianco alla fine era anche di suo gusto, che 9 anni sono tanti se le cose non vanno. Sì, ma sai come succede? Si va perché i bambini c'è tutta una situazione. Ma qual è la differenza con una moglie italiana? La stessa cosa? Sì, probabilmente potrebbe essere la stessa cosa. La differenza è questa, però loro sono molto più dure, nel senso che lei sa quello che vuole. Cioè, ma questo è un valore positivo, che vuole una schiava? No, no, assolutamente. Però lei sa quello che vuole, ma nel frattempo cosa è successo? Che nel momento in cui abbiamo deciso di dividerci, quello che si era fatto insieme è diventato solo suo, quello che si era iniziato a costruire insieme. Però mi sembra, Rosario, adesso non la voglio... Insomma, è una situazione un po' particolare. Vabbè, è un po' particolare, poi mi sembra capito che in fondo c'è stata un'altra decina d'anni. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Gianettore Gassani, presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Nel suo libro I perplessi sposi, che abbiamo più volte citato come una Bibbia, c'è un capitolo, Moglie vuoi dei paesi tuoi. Vediamo se riesci a riequilibrare una situazione che sembra che l'amore sbocci, trionfi e sia il vero motore, il vero combustibile delle coppie miste. È proprio così dal tuo punto di vista? Ma io ragiono da avvocato, quindi guardo sempre l'aspetto... Quando la gente viene da te e litiga. Ecco, quando viene da me è mai finita. O quantomeno qualche volta la gente viene anche prima di sposarsi per sapere che cosa può succedere nel caso in cui ci si sposi con un musulmano piuttosto che una donna dell'est o del Sud America. E come rispondi? Beh, dico innanzitutto, dico sempre che la cosa più importante è sapere prima quali sono le profonde differenze culturali con il nuovo partner che si sta per sposare, perché il problema di fondo è che purtroppo il 70% delle coppie miste finisce in tribunale. Diciamo le cose come stanno, perché altrimenti parliamo di bei principi, di bei concetti, ma non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo attorno a noi, cioè che i matrimoni misti io li vedo assolutamente in maniera positiva, perché sono comunque una grande risorsa interculturale tra i popoli, però forse in Italia si è un po' giocato con questo nuovo fenomeno. Ci sono tanti matrimoni fatti alla cieca con agenzie matrimoniali internazionali senza scrupoli, c'è un atteggiamento di molti maschi italiani che pensano di poter fare una sorta di compravendita di donne giovani dell'est, che secondo loro sono sottomesse e sono come le mamme di una volta, il che poi non è affatto vero. Sono semplicemente più acute, più scaltre nel maneggiarli. Esatto, sono solo donne disperate che andrebbero rispettate, non comprate. Poi c'è il problema di matrimoni convenienza che sono sotto il controllo della mafia. Sappiamo benissimo che a Palermo, a Lecce, a Roma ci sono stati ultimamente vari arresti per matrimoni misti combinati per la cittadinanza, per motivi economici. Cioè ci sono agenzie truffaldine che vendono a poveri anziani ormai nemmeno più in grado di intendere e volere persone che vogliono la cittadinanza o viceversa. Poi ci sono anziani di 80 anni, vedovi che sposano le coppie baranti che hanno 20-30 anni. Insomma, ci sono tante storie vere d'amore che io conosco. Io spesso esco con amici carissimi che hanno sposato uomini e donne straniere, e loro che hanno un livello probabilmente culturale superiore, non legato allo studio, ma legato proprio alla conoscenza della vita, sono riusciti a mediare con persone che hanno profonde differenze culturali e religiose. Ma non sempre capita così. È quello che, visto le testimonianze che abbiamo avuto, sono persone, sì, diciamo, di livello medio, di comprensione della vita, di cultura superiore. Ma il problema è diverso, però quando un italiano pensa di trovare moglie facilmente, semplicemente perché quella è una stangona di 2 metri, bionda, occhi azzurri, e pensa di poterne fare quello che vuole, è lì che si crea il corto. E lui assomiglia a Lino Banfi, a Bombolo nelle commedie italiane anni 70. Ma non ripariamo quando Gennaro e Pasquale sposano Irina e Natascia e pensano di riproporre a loro il modello tipico di alcune zone d'Italia, oppure quando pensiamo che un uomo debba convertirsi all'Islam per sposarsi. In effetti sappiamo benissimo che c'è l'obbligatorietà della conversione nella religione islamica per gli italiani, per i cristiani che vogliono sposare le donne islamiche. Quindi voglio dire, tanti matrimoni funzionano, ma purtroppo tanti altri non funzionano perché probabilmente non sono legati all'amore. Ma la cosa che più mi preoccupa è che spesso la gente si sposa senza neanche poter comunicare, cioè ci si sposa una straniera che non dice una parola in italiano, si sta a volte per mesi o per anni senza comunicare. Noi sappiamo benissimo che la comunicazione è fondamentale, addirittura quando si è della stessa città, e non si riesce a comunicare perché ci sono dei problemi comunicazionali, figuriamoci quando hai a che fare con una persona che poi quando va a separarsi o divorziare ha bisogno addirittura dell'interprete. A Roma tantissime volte noi procediamo con separazioni e divorzi e c'è bisogno dell'interprete. Perché cioè persone che si sono sposate e non sanno parlare tra di loro. Ma neanche una parola, ma non c'è neanche l'inglese comune, non c'è neanche il francese o lo spagnolo comune, cioè non c'è lingua, si parla a segni. Ci sono state delle situazioni veramente esilaranti, tragicomiche nei tribunali. Cioè voglio dire, il matrimonio misto deve essere una cosa secondo seria. Il linguaggio del corpo e basta. Esatto, se si facessero i corsi prematrimoniali che si fanno in molti paesi d'Europa, perché in Europa le persone hanno preso consapevolezza che il divorzio non è più una passeggiata come lo è stato negli anni 80 e 90, oggi ci sono i corsi prematrimoniali. Se tu sposi un islamico devi rispettare l'islamico e l'islamico deve imparare a rispettare te, cioè la reciprocità che è un valore importantissimo. Se uno dei due non rispetta l'altro, ecco che si crea poi il dissidio. Chiamo assieme Luca e Cherubino. Luca, buongiorno. Buongiorno a voi. La sua storia. Io, la mia storia. Allora, io sono sposato con una ragazza rumena dal 2010 e sinceramente mi sto trovando bene e la cosa che a me è piaciuta di più è il carattere forte. Va bene, a lei piace la moglie col carattere forte, educazione severa. Cherubino. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Io do la mia testimonianza. Io ho conosciuto una rumena, sono stato 3 anni insieme, benissimo. Dopodiché abbiamo fatto un bambino che oggi si chiama Matteo, oggi ha 7 anni. E praticamente lei, dopo ha preso la cittadinanza italiana, ha fatto il patatran. E cosa è successo? Mi ha portato in separazione. E poi? E io avevo degli immobili, ma l'ho sposata perché avevo questo bambino. Ci corre 20 anni tra me e lei, io ne ho 60 e lei ha 20 anni meno. E lei pensava che stesse con lei per la sua smagliante forma fisica? Stava tranquilla e lei mi ha portato in separazione. Dopo che ha preso la separazione mi ha detto ora faccio quel che voglio di qui di là. Siccome ho delle proprietà, ma io mi sono sposato con la separazione dei beni. Tutto sta che ho dovuto prendere un avvocato, gli ho dovuto lasciare una casa che io pago un mutuo di 1500 euro. Poi la beffa è questa, che l'avvocato che mi segue mi aveva detto ora la separazione ci vuole da 3.000 a 3.500. Ma ha fatto un decreto ingiuntivo di 21.000 euro, signor Nicoletti. Cherubino, lei è nato con un nome che ahimè la costringerà, la condannerà tutta la vita a sopportare in maniera angelica le vessazioni del mondo, se ne faccia una ragione. Claudio. Pronto? Sì. Buongiorno, io volevo dare il mio contributo. Io sono sposato con una donna russa dal 2000, quindi 12 anni, abbiamo tra l'altro 12 anni anche di differenza di età e direi che il rapporto finora va bene. Avete figli, tutto a posto? Avevamo entrambi dei figli, io 3 e lei 2, i suoi figli si sono perfettamente integrati, anzi uno dei due suoi sta studiando la normale di Pisa. Quindi tutti e 5 con lei stanno adesso? No, di con me stanno soltanto i due suoi, perché i miei ormai sono con un'altra donna, quindi stanno con la mamma, due. Va bene, tua situazione felice. Giovanni. Salve, buongiorno dottor Nicoletti, senta, io pratico una professione che mi porta assistenza domiciliare, che mi porta a parlare con molte ragazze dell'est e ho sentito che praticamente c'è un tariffario per chi vuole sistemarsi in Italia che varia dai 5.000 ai 7.000 euro che loro sono disposti a pagare a qualsiasi italiano che sia disposto a sposare. Di lei, ecco. Di prima persona ha sentito testimonianza di persone che hanno detto guarda io pago 5-7 mila euro se trovo un italiano che mi sposa e mi dà la cittadinanza. Il tariffario attuale è questo, quello che vige adesso è si va dai 5-7 mila euro. E chi è che sposa per 5 mila euro poi? Cioè c'è qualche italiano che probabilmente ha bisogno di soldi. Ma sono anziani, pensionati, persone con l'Alzheimer oppure persone in grado di intendere e volere? Sicuramente. Cioè no, questo le faccio una domanda. No, cioè, poi io non so poi come sono andati, se sono andati a buon fine da queste persone che ho conosciuto, che mi hanno raccontato. Non ho chiesto chi era il target che loro prediligevano, se era l'anziano. Ma le donne da che paesi venivano? Da che paesi venivano? Come, scusi? Da che paesi venivano queste donne, provenivano? Russia. Donne dell'est. Giannetto Gassani, ricordo, presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. L'ascoltatore ha confermato qualcosa che tu già sapevi? Sì, sì, Gianluca, io so benissimo di questa vicenda. Ribadisco un concetto, molti matrimonialisti sono una meraviglia. Parliamo però di un fenomeno che va analizzato bene. Nei 26.000 matrimoni che sono censiti circa ogni anno, consideriamo che almeno una buona metà sono matrimoni assolutamente usa e getta, o matrimoni legati ad altro rispetto all'amore. Io ricordo il caso di una di Torino che dietro compenso di circa 8.000 euro aveva contratto matrimonio con un transessuale marocchino di 28 anni, lei 86, 2008. Da lì si è scatenato l'inferno giudiziario. Interessante laboratorio. Tragicomica, che io scrivo nel mio libro Perplessi Sposi, veramente tragicomica, ma non è l'unico caso. Modena, per esempio, 2 anni fa hanno scoperto un altro traffico di matrimoni falsi. Quindi voglio dire, i matrimoni misti veri, quelli vanno benedetti. Poi c'è tutto un fenomeno legato ai matrimoni misti che va contrastato duramente. Per esempio a Modena, addirittura le fedi che venivano scambiate tra i coniugi non avevano neanche i nomi dei coniugi stessi, erano fedi prestate da altri, scoperto in flagrante dalla polizia. Cioè, voglio dire, c'è un fenomeno legato alla malavita organizzata italiana, romena, albanese, ma anche russa. Affari d'oro sui matrimoni misti. Quindi, ecco, fermiamoci un secondo, però Gaia Peruzzi, volevo sentire, che ricordo ha scritto Amori possibili, coppie miste della provincia italiana, Franco Angeli editore, questo segmento criminoso dei matrimoni misti non inquina i dati quando si fanno ricerche, quando si fanno analisi? Ma chiaramente il fenomeno esiste e voglio dire, noi non siamo altro che in grado di registrare il numero complessivo e i dati sono talmente massicci nel dire che c'è stata una crescita, che chiaramente una parte di questi non si può negare che siano matrimoni contraffatti. Anche perché ogni tanto li arrestano, scoprono i racket. Certo, ma io voglio dire, questo riguarda qualunque fenomeno sociale, voglio dire che spesso ha, come dire, una parte positiva e una faccia più nera. Se poi noi consideriamo che siamo dentro un fenomeno più ampio che si chiama immigrazione e che comunque c'è una pressione di alcune, voglio dire, di alcune fasce della popolazione a entrare in Italia a sistemarsi, è chiaro che ci sono dei margini in cui, voglio dire, si creano delle sottosacche di illegalità, dei percorsi non regolari che chiunque dotato di buon senso, voglio dire, riconosce come un rischio, ma questo poco toglie a un fenomeno che è talmente notevole che ci indica comunque nel suo complesso un mescolamento della popolazione in corso, il quale non si possono escludere delle frange, come ha detto lei, di percorsi criminali, reti organizzate, ma questo non toglie che c'è un fenomeno di mescolamento in corso che si produce con le caratteristiche sia della popolazione immigrata che di quella italiana insieme, insomma, voglio dire, siamo una popolazione che, come dire, avvezza in tanti fenomeni a escogitare i percorsi, come dire, i percorsi furbetti. Mi sembra chiaro, io sto vedendo adesso, sto guardando le statistiche del profilo Facebook di Melog e sto vedendo che in questo mese questa è la trasmissione che ha avuto una maggiore diffusione, quindi il problema è molto sentito, emotivamente comunque molto sentito. Io ringrazio Gianetto Regazzani, ringrazio Gaia Peruzzi, ringrazio Alessandro Cappini e Fabrizio Intonti. Solo una cosa, questa sera saremo alla nottata di Picasso a Milano al Palazzo Reale. Vi dico quello che ci sarà, ma non vi dirò mai domani quello che c'è stato, non potrò mai dirlo. A domani.